avec des yeux d'opale, qui me fascinait, il y avait l'aval de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe, ça fait déjà un fameux bail, ça fait déjà un fameux bail. Oggi dedichiamo la trasmissione a una ben precisa categoria professionale composta principalmente da donne. Anzi, ci interessano soltanto le donne che fanno questo tipo di lavoro. Qual è il lavoro? Il lavoro è la femme de chambre, oppure la cameriera ai piani. Sono quelle donne di varia età, di varia etnia, di varia avvenenza, di cui non è necessario avere avvenenza, ma è importante avere comunque una gradevole e ben aggiustata presenza, che si occupano appunto del mantenimento, del rifacimento, dell'attenzione alle camere d'albergo. Perché ce ne occupiamo? Ce ne occupiamo perché naturalmente un appartenente alla loro categoria è la protagonista dell'ultimo affair sessual politico vipaiolo, che appunto ha, come è noto, ha come protagonista attivo in primo piano Dominique Strauss-Kahn, l'ex direttore generale del Fondo Monetario Internazionale, che si lasciò andare, almeno secondo l'accusa, a dati innominabili nei confronti di una cameriera di un albergo americano, un grande albergo americano, che avrebbe molestato fortemente, e le cui prove di questa molestia tangibili e concrete oggi rappresenterebbero il maggior capo d'accusa nei confronti di questo ex notoriamente gentiluomo, oggi sotto l'occhio di tutti come insidiatore di cameriere d'albergo. 800240024, quanto hanno avuto l'esperienza di momenti irripetibili in una stanza d'albergo quando ci si trova da soli con una donna sconosciuta, e chi è incline a seguire proprie fantasie che sarebbe meglio tenere riposte nei lati più nascosti della propria emotività, si sia almeno lasciato andare alla tentazione di tentare un approccio con questa donna. Quante delle ascoltatrici hanno esercitano questa importantissima professione? Chi come me per anni ha vissuto in stanze d'albergo sa, per periodi della propria vita, per esigenze professionali, sa quanto è importante avere una sorta di accoglienza familiare nel proprio albergo, sia tutto a posto, che sia tutto in ordine, e la sera trovare il letto aperto con il cioccolatino sul cuscino fa piacere. Questo lo fanno delle persone che la cifra professionale è quella di essere invisibili, non si devono vedere, non si devono sentire. Quando qualcuno si accorge della loro presenza, nasce il cortocircuito. Beh, quante cameriere d'albergo, quante signore che lavorano nei piani di un albergo sono trovati in situazioni di questo tipo, a dover arginare un'emergenza di eccesso di affettuosità da parte di un cliente. Il tema di oggi è proprio questo, 800240024, ma ricordiamo qual è il fatto di cronaca da cui nasce la nostra riflessione. Hai capito chi sono io? Più volte Dominique Strauss-Kahn l'avrebbe ripetuto alla sua vittima durante l'aggressione nella stanza del Sofitel a Manhattan. Ofelia Diallo, la cameriera che l'accusa di stupro, inutilmente scongiurava l'ex numero uno del Fondo Monetario Internazionale di lasciarla andare, temeva soprattutto di perdere il lavoro. Ma Strauss-Kahn, approfittando di una caduta accidentale della donna nel tentativo di sfuggirgli, l'avrebbe infine sopraffatta usandole violenza. Sono i particolari di quanto accaduto il 15 maggio nell'hotel newyorkese, raccontati da fonti anonime della polizia. Perché ci siamo interessati a questo argomento? Ci siamo resi conto, facendo un piccolo microscopico sondaggio tra gli ascoltatori che ci seguono su Facebook, che esiste tutta una trattatistica di situazioni tipo, di momenti chiave, di incroci imbarazzanti in cui queste signore che svolgono un importante e onorevole lavoro si trovano in condizioni a cui sono sottoposte probabilmente gran parte di molte altre categorie di donne lavoratrici, ma lì ci sono delle fattispecie particolari. C'è innanzitutto il luogo galeotto, la stanza d'albergo, la situazione galeotta si potrebbe creare, un uomo che nell'intimità della propria stanza d'albergo si trova in situazioni di non totale compattezza di vestiario. l'ambiguità del fatto che molte volte molti sono portati a pensare chi necessariamente svolge certe professioni ha la possibilità di allargare il proprio orizzonte professionale. Tutti terribili pregiudizi, ma situazioni molto particolari, perché le persone che abbiamo sentito, di cui abbiamo letto le testimonianze, dicono che in realtà esiste una sorta di sistema protettivo rispetto agli allargamenti d'orizzonte, così li vogliamo chiamare, dei clienti poco consoni a un comportamento corretto. Quindi vorremmo capire questa mattina veramente quanto è protetto il personale d'albergo da questo tipo di attacco. Esiste veramente una situazione ambigua nelle stanze d'albergo per cui esistono ben precise regole che portano a salvaguardare queste persone, e soprattutto anche l'aspetto fantasioso, l'aspetto onirico. Cosa vi scatta nella testa quando siete soli in una stanza d'albergo e bussa ed entra una cameriera magari semplicemente per cambiarvi le salviette nel bagno? 800 24 00 24. Arriva sto talco? Da qua. Molto bene, così va via subito. Senti un po' tu, questa è pure Loganda, no? Mm? Sì. Se può fare un riposino? Sì, certo, lo dico alla padrona. Bravo, occhi neri. Lo sai che faccio? Mo salgo in camera, chiedo una bottiglia d'acqua minerale, lei me la porta e fra mezz'ora ripartiamo, va bene? Anzi, ci puoi salire pure te, vanno scendo io. Che te schifi? No, te va, eh? No. Il comportamento tipico dell'italiano medio, ma come abbiamo visto nel caso Struscan, non è soltanto l'italiano, ma anche l'americano, il tedesco, il francese, l'inglese, l'australiano, l'archimandrita che viene da terre lontane e che si trova in questa situazione non rinuncia comunque a tentare l'approccio. In questo caso è Gassman nel Sorpasso, un film ambientato negli anni 60, in cui però hanno Gassman e il suo amico Trintignant, il suo compagno d'avventura, scendono in una locanda e Gassman capisce l'area, nasa l'aria e, come dite, butta il laccio e poi si porterà la cameriera su in camera. Ma probabilmente nella commedia italiana si tende a ribadire un luogo comune, che esista questa possibilità, che faccia parte del pacchetto, che il colpo d'occhio possa definire quali tra il personale di piano siano disponibili comunque a un allargamento delle loro mansioni professionali. Beh, tutto questo vorremmo che fosse discusso questa mattina, ma abbiamo un ospite, una nostra ascoltatrice, che si è offerta di darci qualche lume su questo orizzonte, perché lei da 10 anni è appunto cameriera ai piani. Anna, buongiorno. Buongiorno, come va? Tutto bene? Lo domando io a lei. Ma a me benissimo, guardi. Io partecipo comunque a questo programma proprio per esporre in pratica cosa succede ai piani. Ecco, ce lo dica, comincia a darci il punto. Nessuno più di lei può darci l'esatto polso alla situazione, per esperienza personale. Sì, no, infatti, proprio per esperienza personale, perché poi comunque ognuno fa le cose per come se la sente di fare. Io per esperienza personale ho iniziato a fare la cameriera ai piani, a prescindere dal quadro comunque che ti ho detto in busta, però in base alla direzione ti danno delle mansioni dove tu puoi gestire tranquillamente il tuo reparto. Io tuttora sono cameriera ai piani, sono governante, quindi mi gestisco il mio reparto, le mie ragazze ai piani. E lei diciamo è un po' la capa di un gruppo di signori che si occupano delle stanze, quella che coordina i carrelli, tiene un po' l'organizzazione. Ma allo stesso tempo io pulisco anche le camere, al momento del bisogno pulisco anche le camere, perché è così che si deve essere, no? Da dare il buon esempio, secondo me. E metto mani anche alla sala colazione, perché comunque quando serve facciamo anche la sala colazione. Allora, non giriamoci intorno. Quali sono i momenti critici, i punti nevralgici in cui può scattare questo cortocircuito col cliente porcaccione? Allora, l'uomo premettiamo che è cacciatore, quindi in qualsiasi altra situazione lui può provarci. Sì, però non può saltare addosso a una cameriera mentre rifà il letto. No, io ne sono totalmente contraria a sta cosa. Ma le mai è caduto? Sì, assolutamente sì, infatti glielo spiego. In pratica c'è qualche cliente che ci prova lasciando i bigliettini, i numeri di telefono, dove comunque vanno cattati il pattume. dei clienti che ci provano a chiamarti in camera, casomai non vai alla TV, non vai al canale che loro preferiscono, e comunque io... E poi spiegano qual è il canale che loro preferiscono una volta che lei è dentro. Ma siccome sono straniere tante persone, io riesco più o meno a farmi capire con il linguaggio, con la manualità, però quando vedo che la cosa persiste, perché comunque non sono stupida, capisco quello che vogliono, li saluto, arrivederci, grazie. E come fanno a farlo capire, in maniera esplicita o... Allora, l'ultimo episodio è successo proprio che una ragazza ai piani me la stavano tirando in, cioè me la stava tirando in camera, siccome io sono andata di prima persona a vedere il problema che riscontrava il cliente. Capito lì, gli ho detto di lasciar stare, chiamavo il direttore, quindi era una cosa che facevo intervenire un superiore più grande di me. Ma in quel caso è vero, signora, che le direzioni degli alberghi, senza entrare negli specifici, tendono piuttosto a minimizzare la cosa e fare in modo che il cliente sia soddisfatto, magari facendo finta che è stato un equivoco e non intervenendo in maniera così precisa come si è intervenuto nei confronti del signore di cui stavamo parlando? Guardi, io le parlo del mio albergo, sinceramente in casa nostra sta cosa non succede, perché il cliente deve essere messo comunque alla verità, cioè alla verità assoluta, dove comunque si vive in un albergo, delle situazioni possono succedere come anche in casa, quindi il nostro direttore non fa assolutamente una cosa del genere, anzi. Ecco, lei che tipologia di alberghi, diciamo, frequenta, in quei tipologie di alberghi, per capire un pochino le varie differenze? Io lavoro in un 4 stelle, che a prescindere dalle stelle comunque poi fa parte sempre del team, come te lo porta avanti un albergo. Comunque un albergo che mediamente ha un pubblico di passaggio, persone che vanno per lavoro, stanno una notte, massimo due, poi se ne vanno. No, sì, noi abbiamo anche persone però che durano tutta la settimana, cioè rappresentanti di grandi ditte. E quelli sono i più pericolosi, perché si considerano mai che già che ci stanno lì vogliono pane companatico. No, invece no, invece quelli fissi sono le persone più affidabili, perché conoscono le abitudini e noi li coccoliamo nel modo più assoluto, perché conoscendo l'abitudine del cliente precedi quello che loro vogliono. Ma qual è la situazione limite? Quella, lei entra in camera e trova il cliente magari in déshabillé volontario e criminoso. Situazioni pericolose che ho capito che magari è stato fatto apposta, ma non pericoloso, perché non è presunzione la mia, ma io non mi sento mai in pericolo, anche perché io le ragazze quando viene al momento, allora intanto io la camera al cliente non la do fino a che non l'ho data pulita giù al ricevimento, quindi il cliente deve passare al ricevimento. Se è un cliente nuovo, se è un cliente comunque abituale, noi lasciamo sì che conoscendo l'orario gliela facciamo trovare comunque pronta. Metti caso che nell'eventualità arriva un day use che è solo un uomo, noi facciamo in modo di esserne in due. Di andare sempre in due, lasciare la porta aperta. Sempre. Se chiede la colazione in camera, mandare un uomo invece che una donna. Ci sono dei piccoli. No, ci vado io, perché mi è capitato anche che il cliente, per prendere il vassoio e per firmare la comanda, dove comunque gli viene addebitato in camera, si lascia un attimo scivolare l'asciugamano, ma davanti a queste cose a me mi viene solo una grande risata. Comunque hanno una grande sicurezza di sé, perché a meno che non sia un campione di concorsi di bellezza, tirar giù l'asciugamano di fronte a una donna evita. Comporta sempre vari rischi, non è che un uomo sia così fantasticamente appetibile nella media. No, ma infatti io le parlo proprio del nostro albergo, sono persone di passaggio, sono persone che davanti a questa reazione non vengono più, e sono ben contenta, perché noi vogliamo una selezione di clienti abbastanza esigenti, abbastanza professionali come lo siamo noi. Ma fermiamoci un secondo, perché noi abbiamo preparato una sorta di decalogo che corrisponde ai requisiti, preso da internet naturalmente, in siti specializzati, che dovrebbe avere una cameriera ai piani. Poi sentiamo, già siamo pieni di telefonate di professioniste del lavoro appunto ai piani degli alberghi, le confronteremo poi con quella che è la realtà. La cameriera o il cameriere ai piani è specializzata nella pulizia delle camere e delle altre zone di un albergo. L'attività è in genere svolta come dipendente dell'albergo. Le sue attività possono comprendere pulire le stanze e le altre zone di un albergo a mano o con macchinari appositi, passare l'aspirapolvere, svuotare i cestini, lavare e disinfettare i bagni, cambiare la biancheria nelle stanze, rifornire i bagni di sapone, shampoo, bagnoschiuma, rifornire le camere di bevande, alimenti e materiali informativi, quando previsti. La sua attività è svolta nei locali dell'hotel o in altre strutture ricettive, campeggi, ostelli, eccetera. Per lo svolgimento della sua attività utilizza aspirapolvere, scope, strofinacci, carrelli, eccetera. Per lo svolgimento di questa attività non è richiesto un titolo di studio specifico. Sono richiesti attenzione all'igiene, buona manualità, capacità di lavoro in squadra, velocità e precisione. È chiaro che poi aver pubblicato questo decalogo aumenterà i lati di ambiguità di tanti ascoltatori che ascoltano, che associano la buona manualità all'uso di alcuni strumenti aspiratori con fantasticherie che in realtà non corrispondono alla realtà. E probabilmente uno di questi è proprio l'ascoltatore Paolo. Buongiorno Paolo. Ecco, infatti si è autosegato subito. Paolo era un ascoltatore, speriamo di recuperarlo. Dice che succede molte volte anche la cosa opposta. Lui tante volte va in albergo, si alza la mattina e trova la cameriera che gli fa delle avance perché vuole in qualche maniera incrementare la sua attività. Lo trovo molto poco probabile, perché in anni di inviato che ho fatto e di frequentazioni settimanali di alberghi, devo dire, non mai, nemmeno ho avuto la minima sensazione potesse accadere questo. Sentiamo un'altra ascoltatrice, Vera, buongiorno. Vera è un'altra governante di un hotel romano, se vuole dice il nome, se non è importante. Vera. Buongiorno, sono Vera, lavoro all'Hotel Petra di Roma. Hotel Petra di Roma, benissimo. Lei gestisce il lavoro delle cameriere ai piani. Sì. Ecco, lei riscontra un particolare lavoro usurante o problema professionale legato all'intraprendenza o all'aggressività dei clienti nei confronti delle sue dipendenti? Ma assolutamente no, guardi, posso dire tranquillamente che le cose che succedono comunque le persone se le cercano. Quindi lei dà ragione al nostro ascoltatore, che accade soltanto con le ragazze ai piani che sono ammiccanti, diciamo così. Sì, che, assolutamente. Che la difesa di Strauss-Kahn, dice lei, che mi ha cercato, mi ha discato, non è che io l'ho presa con la violenza. Assolutamente, perché può capitare, come io dopo 14 anni che lavoro in questo albergo, quindi ho cominciato con la cameriera, sono capo cameriera, aiuto anche le colleghe, però le posso garantire che delle avanze a volte ci possono anche essere. Però giustamente, se tu stai facendo il tuo lavoro, praticamente fai finta di nulla e continui a fare il tuo lavoro e la persona gentilmente si tira indietro. Diciamo quindi, che bisogna evitare che sia il cliente in camera nel momento della pronazione nel rifare il letto o altri momenti particolari, ma tolto questo non vedo il momento in cui uno potrebbe fare dell'avance. Può fare un sorriso, può fare un complimento, ma può fare un sorriso, infatti, oppure magari c'è anche magari una persona che ti invita a rifare la stanza con lui dentro, però gentilmente si dice guardi, ripasso più tardi, non ci sono problemi. Questo è accaduto anche a me, molte volte uno deve scrivere un pezzo o finire di fare il suo lavoro, dice faccia pure il letto, lei non mi disturba, bello rimanere qua, è un diritto. Ma su un cliente abituale lo fai, però su un cliente che non conosci, anche perché pure è maleducazione, tra l'altro, entrare nella stanza quando c'è il cliente. Abbiamo le altre stanze libere, prima finiamo le mie. Si è come autosfumata, Vera. Vediamo se riusciamo a riprenderla. Sentiamo intanto Paolo, ecco, l'abbiamo recuperato. Paolo. Dottore, buongiorno. Lei è quello che ha avuto avanza da parte delle cameriere? Allora, no, niente, tutto bello, tutto giusto quello che dicono le signore, per l'amor del cielo, anzi ci ma lei parli serenamente della sua esperienza. Esperienza è che uscita dalla camera, rientro alla camera perché dimentichi una cosa. Lei è agente di commercio, quindi viaggia molto. Dal 1974. Di media quante notti in albergo passa durante la settimana? Dalle 3 alle 2, 3, a volte anche 4. Benissimo, quindi succede nelle grosse città, per l'amor del cielo, non vorrei essere fraintesa. Non facciamo nomi. Siamo uomini di mondo tutti e il mondo cambia, visto anche lei nelle sue. Ma io non mi scandalizzo di nulla, voglio solo sapere e capire. Cameriera con minigonna, grembiulino, camicia. Ma quella scuola vista al cinema, la divisa del cameriere è uguale per tutte. No, la divisa è uguale per tutte, la minigonna. Trasparentissima, con tanto di petto aperto. Ma dove l'ha vista questa, scusi? Mi segnali l'albergo, perché lei può. A un certo punto. Gli atteggiamenti. No, mi scusi, no, perché bisogna essere precisi. Gli atteggiamenti non sono prevedibili, ma la divisa è uguale per tutte. La divisa deve avere quella, non posso mettersi. Per l'amor del cielo. Poi a un certo punto, cordialità per cordialità, vuole il caffè, torno dopo, faccio prima, faccio dopo, si guadagna poco, la vita è pesante, qui e là, insomma, chiedo scusa al mondo femminile che mi ascolta. Sì, vabbè, lei ha trovato alberghi. No, mi permetta, chiedo scusa anche perché poi dovrei chiudere. È richiesta di denari. A quel punto lì lei capisce, c'è chi ha il portafoglio grosso, c'è chi ce l'ha piccolo, c'è chi l'ha medio e c'è chi può, probabilmente. Quello accade in tutte le fattispecie maschili, ma non è un problema. Esatto, vuol dire, Paolo, però lei mi fa delle situazioni limite, giusto? Ci saranno alberghi, non voglio escluderlo nella varietà delle possibilità, in cui il personale di camera arrotonda, perché sono alberghi non certo di alta categoria, in cui le cameriere fanno anche operazione di escort, come si dice oggi. Potrebbe essere, accade, ogni tanto fanno delle retate, li beccano questi alberghi. Se lei capita in questi alberghi, trova le cameriere col grembiulino trasparente, come dice lei, e la gonnellina, che le chiedono soldi in cambio di una marchetta. Ma è un'altra categoria. Io sto parlando di oneste signore con il loro grembiule fino a metà polpaccio, con la loro cristina in testa, con la famiglia da mantenere, stanche, hanno già fatto 200 letti, affaticate, che hanno spinto il carrello lungo 30 corridoi, che sono arrivati a fine turno e trovano un maiale che si apre l'asciugamano fingendo che è casuale, mostrando la sua pancia flaccidosa, come è successo appunto a Strauss-Kahn. Melog 2.0. Maria! Oh, oh, mi scusi, credevo che la stanza fosse libera. No, non m'entri pure senza complimenti, ci mancherebbe altro. Non disturbo se faccio le pulizie. No, anzi, e mi fa un piacere. Io intanto mi alleno un pochetto, perché noi pugili dobbiamo stare sempre sotto carburazione, capito? Chissà quante ragazze le ronzano intorno a lei. A me? Ma che scherzi, tante. Però il guaio è che non sono mai riuscito a trovare la donna adatta, capito? Non so perché, forse anche per colpa di sta puzza sotto il naso che mi ritrovo, capito? Neanch'io ho mai incontrato la persona giusta. Però avventure tante, perché mi sa che voi cameriere, quando gli date dentro. No, sono un fidanzato a Udine. L'ho lasciato perché era volgare, vede, non era affine come lei. Questa è una scena che tende a ribadire uno dei tanti luoghi comuni, presa dal Grand Hotel Excelsior, in cui la cameriera, attratta dalla notorietà del personaggio, si lascia andare a un'opera di cauto corteggiamento. Sono tanti a scrivermi, soprattutto uomini, su Facebook, dicendo che in realtà accade anche molte volte il contrario. Un signore scrive che aveva lasciato una ricevuta del ristorante in un conto particolarmente lussurioso, la cameriera l'ha adocchiato e quindi ha capito, ha pensato lui fosse molto ricco, ha cominciato a molestarlo, tanto ha dovuto ricorrere alla direzione dell'albergo. Non voglio mettere in dubbio le testimonianze di vita dei nostri ascoltatori, ma molte volte la realtà si confonde con visioni adolescenziali di film con Lino Banfi e con Bombolo e con Alvaro Vitali, e quindi logicamente i ricordi tendono a mischiarci con quello che noi abbiamo visto o sentito dire. Sentiamo Anna, che è la nostra ascoltatrice, cameriera ai piani da 10 anni, con grande esperienza, che commento da fare rispetto alle telefonate che ha ascoltato. Sono qua. Sì, Anna, ecco, rispetto a quello che ha ascoltato su questo versante, il signore che fantasticava di cameriere che fanno avance vestite in maniera succinta, mi sembra che la divisa sia l'obbligo e quindi escluderei questa provocazione, se no, così si può chiamare. Guarda, sono qua proprio per rispondere al signor Paolo, non tolgo dei meriti assolutamente, però esiste una legge per la sicurezza sul lavoro, quindi in pratica la cameriera ai piani deve adibire una divisa in tutti quanti uguali, dove copre il ginocchio, non ha bottoni che si possono rompere mentre si fa il letto, quindi esattamente, è una cintura unica, una cristina dove tiene i capelli per non perdere i capelli nel letto del cliente, quindi io le parlo sempre come esperienza personale. Soprattutto scarpe a ciacca lussuria che da suora, quindi assolutamente no, cioè ciabatte bianche. Ciabatte bianche, quindi diciamo è l'opposto, a meno che uno non abbia nelle sue fantasie preferite quel tipo di abbigliamento, non ha nulla a che fare con le cristine che diceva il signore, le minigonne e le cose trasparenti. No. Io le parlo sempre come esperienza personale. Come ma io guardi, tanti alberghi che ho girato, questo ho visto, onestamente. Sì, no, in effetti è frutto della sua fantasia, nulla a togliere al suo merito, per l'amor di Dio, magari abbia... Ma può essere anche finito in uno di quegli alberghi che in realtà fa parte del pacchetto la fornitura anche di ragazze in camera, allora è un altro discorso, però... Sì, no, no. No, uno se lo va a cercare. Sì, infatti, volevo rispondere anche alla collega Vera. Per quanto riguarda la scelta cioè che a volte le persone se le cercano, secondo me è anche la selezione del personale che va un attimo curato. Quindi se il curriculum prevede tutti i requisiti che tu chiedi a una persona con esperienza se ne... Cioè, a lei mi è capitato di dare consigli a barretta, ordine a suoi dipendenti, dire cerca di essere meno espansiva con i clienti nel tuo lavoro? Le ho anche lasciate a casa, perché io do prova a tutti di dover lavorare. Quindi lei ha licenziato persone che non erano all'altezza della riservatezza del proprio compito? Sì, perché lì si fa il lavoro, si va a casa tranquilla a curare per la famiglia, il cliente paga a ragione, ma fino a un certo punto. No, quindi mi rendo conto, Anna, qui la saluto, che in realtà il lavoro della cameriera Piani ha le regole di un ordine monastico, proprio perché si ha a che fare con uomini in situazioni che potrebbero creare dei margini di ambiguità. C'è un uomo in camera da letto, potrebbe essere in qualsiasi condizione, con qualsiasi idea per la testa, quindi la donna che si occupa della manutenzione di quella camera deve seguire delle regole ben precise. Se segue queste regole ben precise, i margini incidente sono molto limitati, vero Anna? Posso aggiungere una cosa? Sì. Al decalogo? Quando un cliente dimentica qualcosa, che sia anche uno shampoo, ed è abituale di metterlo in camera quando ritorna, che è un'attenzione abbastanza curata, dove il cliente comunque lo tiene da parte. Beh, se è abituale, questo, io ho lasciato vagoni di roba negli alberghi che rimpiango, quindi mi avrebbe fatto molto piacere ritrovarla. Grazie. Noi chiamiamo addirittura i clienti per spedirli in casa. Ecco, grazie, questo mi fa piacere, a meno che il cliente abbandoni oggetti che lasciano segnali molto chiari di quelle che sono le loro intenzioni. Sentiamo il nostro ascoltatore, Fabio. Fabio, buongiorno. Salve, buongiorno. Niente, io ascoltavo divertito la trasmissione di oggi, perché anni fa lavoravo in un piccolissimo agriturismo del Salento e... bassa stagione, unico cliente un noto giornalista, insomma. Vabbè. Allora mi sembra lavorasse su Sky, tornato dall'Iraq, insomma, poi successivamente dichiaratosi bisessuale, insomma, che fece, insomma, delle avance abbastanza esplicite a lei. Sì, a me, che non ero nemmeno di bellissima presenza, devo dire. Però non è che le fece violenza, gli fece l'occhiolino. No. Vabbè, gli aveva detto: sei un bel ragazzo e andiamo a cena insieme. No, diciamo che partì, insomma, facendomi delle domande sulle mie amicizie maschili più intime. Evidentemente gli dava l'aria che faceva parte della squadra, e lei l'ha messo. Questo non fa parte, ho capito, è una cosa che l'ha segnata nella vita, è giusto che lei la racconti e le fa bene raccontarlo, però stia tranquillo. Finché non si entra nella zona limacciosa in cui il complimento o la domanda diventa vessazione o molestia, è sempre lecito chiedere a uno: guarda che begli occhi che hai, se uno piace l'articolo. Bene, andiamo avanti. Gianluca, buongiorno. Sì, buongiorno Gianluca. Da 20 anni nel ramo alberghiero, quindi esatto. Lei ne sa una più del diavolo. Sa, l'albergo è come un mondo a sé, cioè ci gira tante persone di tutte le razze, insomma. Lei cos'era, il direttore dell'albergo, quello che gestiva? No, io sono il tecnico e anche responsabile della sicurezza dei dipendenti. Quindi lei non ha, diciamo, come diretto riporto le signore che stanno ai piani, però vede tutto e ascolta tutto. Esatto, e spesso sono fianco a loro per eseguire certi lavori, insomma. Quindi quando chiede il cliente: vieni a aggiustare il televisore, ci mandano lei, quando immagino. Esatto. Che e quali sono allora le situazioni critiche e le zone a rischio? Sicuramente quando il cliente si comporta in determinate maniere, tipo pretende che la cameriera rifaccia la camera quando lui è dentro, e spesso si è verificato casi di persone che si sono fatte trovare in asciugamano e che lentamente se lo siano slacciato. Sì, il classico asciugamano che cade. Esatto. Ripeto, io invidio la sicurezza di queste persone, perché io prima di togliermi un asciugamano di dosso di fronte a una sconosciuta dovrei essere sicuro ci fosse buio totale in quella stanza. Poi sono molto molto sicuri della loro prestanza fisica. Poi, ma sa Gianluca, io prima ascoltavo Anna e devo dire che anche da noi è così, cioè le cameriere sono vestite molto succinte su alberghi? Sì, cioè non succinte, scusi, monache con la divisa monaca. No, ma è una legge, cioè, la legge di sicurezza sul lavoro pantaloni impone certi tipi di scarpe, certi tipi di abiti, è logico. Esatto, cioè è proprio una cosa che non deve dare nell'occhio. Le cameriere sembrano tutte di una certa età, ecco, anche se sono giovani, proprio volutamente per non fare che la gente pensi che si trovi in un ambiente particolare, ecco. Ma ci sono clienti che in realtà danno segni molto espliciti di essere venuti in albergo non certo per diporto, ma con l'idea di usarlo come zona. Le racconto un episodio accaduto circa una quindicina di anni fa. Sì. Quando una cameriera entrò in una camera e rimase spaventata e ci chiamò e entrammo e trovammo diversi oggetti fallici distribuiti nella camera. Apparecchiata la stanza? Apparecchiata, sì, proprio nel vero senso della parola, con giornali pornografici su determinate scene. Ma il set era a favore della coppia che stava in quella stanza o...? Era un signore da solo che cercava compagnia, qualcuna che volesse fare determinate cose con lui. E quindi aveva apparecchiato la stanza d'albergo come fosse, diciamo, un salottino per diciamo incontri a luci rosse. Esatto. Insomma, mi sembra una maniacale attenzione, sarebbe bastato molto meno, forse doveva scegliere l'albergo giusto, il luogo giusto, le persone giuste. Devo dire che la direzione in quel caso si è comportata benissimo, perché oltre a mandare poi una persona a fianco della cameriera finché il personaggio non è partito, poi questo signore non è neanche stato ripreso più. Sì, anche perché serve uno sminatore per disinnescare tutti quei siluri lasciati in giro per la stanza. Secondo me è proprio una questione di malcostume, dove si pensa che le cameriere siano delle persone che vengano dai bassi livelli. Ma è soltanto una cosa, mi sorprende in questo. Sì. Se uno riesce ad avere la faccia tosta e la spregiudicatezza di apparecchiare una stanza albergo di materiale pornografico per adescare una cameriera, ma con quello che è facile trovare in giro, basta aprire un sito internet o sfogliare il più modesto dei quotidiani nazionali per trovare tutto quello che vuole, perché non va direttamente a chi fornisce la prestazione completa come lui pretende, piuttosto che andarla a mendicare alle cameriere? Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Elle avait des bagues à chaque doigt, des tas de bracelets. 800 24 00 24, questa mattina siamo calati nel mondo segreto delle cameriere ai piani degli alberghi. Come vedete, un mondo infarcito di luoghi comuni, di leggende metropolitane e di esperienze concrete e reali, una sua tipologia di intervento. Abbiamo capito che le cameriere ai piani sono una sorta di ordine monastico con delle precise regole di vestiario, di comportamento, che quando queste sono ottemperate, e negli alberghi di buona categoria sono sempre ottemperate perché fa parte appunto della tenuta di quell'albergo, è difficile trovare delle situazioni di ambiguità. Quando ci sono situazioni di ambiguità, il sistema stesso le sa arginare. Poi esiste e continua a persistere una classe di nostri ascoltatori, soprattutto su Facebook, che ci scrive in realtà di fantomatici alberghi dove girano cameriere che sembrano tratte da una commedia degli anni 70. Ma per quello che io posso sapere, aver capito nella vita, viaggiando e frequentando molto gli alberghi, più l'albergo è di qualità e tenuta, più il servizio si differenzia. Ti fornisce anche quel tipo di prestazione se vuoi, basta sapersi guardare attorno, e non sono le cameriere ai piani che lo forniscono. Gli alberghi di categoria un po' più bassa, può essere che ci sia un arrangiamento generale, ma fa parte comunque del colore del costume. Noi cerchiamo di ricostruire le circostanze che sono state richiamate alla cronaca del caso Strauss-Kahn, in cui un signor rispettabilissimo si è sentito in diritto di saltare addosso a una cameriera di un grosso albergo, il Sofitel di New York, e quindi dando l'idea che comunque a qualcuno potrebbe venire l'idea che trovare una donna disponibile apparentemente in un luogo che nell'immaginario generale maschile è dedicato non soltanto al riposo ma anche all'incontro clandestino, insomma, potrebbe accendere il desiderio e trasformare in realtà quello che è un sogno. Nuccio, buongiorno. Buongiorno. Lei frequenta da 30 anni alberghi per lavoro? Da oltre 30 anni frequento alberghi e a me non è mai capitato di avere avance o di vedere signore che rifanno le stanze, che ci provano. Mai. Le confermo la stessa cosa anch'io. Mai. E mi è capitato anche per lavoro di andare in qualsiasi tipo di categoria. Anche perché rischiano il posto. Per me il posto di lavoro è più importante che lasciarsi andare con un cliente. Poi non è che normalmente chi racconta queste cose non appartiene al jet set o alle persone che farebbero cedere le resistenze anche di una madre badessa. Sono normali viaggiatori, omettini, umarel, rugosi e un po' puzzolenti. Quindi mi sembra un po' strano perché suscita improvvisamente lo sbracamento sensuale di queste signore. Sì, quindi io il distinguo non lo farei fra le signore che lavorano sodo e duramente, che poi vanno a casa e devono anche badare alla casa. È un lavoro molto pesante, diciamo. Sì, io farei un distinguo fra gli uomini, cioè quelli che ci sono per lavoro e lavorano, e altri che avrebbero bisogno di un dottore. perché si lasciano andare a fantasie, o se hanno queste fantasie frega il passo con gli alberghi. Tanto tutti si sanno, internet è una fonte. Ma infatti dico oggi la cosa più semplice del mondo è trovare persone che si concedono per sesso prezzolato, lo dico con leggerezza perché è così, è un dato di fatto. Quindi, però evidentemente sa, le fantasie avercele è anche salutare, coltivarle nella propria testa, metterle in atto bisogna fare i conti con la realtà che ci circonda. Non tutte le fantasie possono avere un'attualizzazione. Uno si può organizzare con un'amica, gli può dire vestiti da cameriera d'albergo perché questa cosa mi fa andare fuori di testa. Se vuole, do un suggerimento, ma trovare una signora che a casa c'ha i figli con l'orologio in mano e deve correre a casa, andarli a riprendere magari all'asilo, che ha già rifatto 70 letti, che non ne può più di avere le mani nella varichina per di pulire i cessi sporchi di altre persone, pensare che questa signora sia colta da fantasie, se noi ci togliamo l'asciugamano, apriamo l'accappatoio, secondo me ne passa un po'. Roberto. Sì, buongiorno. Senta, è stato detto un pochino tutto in attesa perché sono venuti diverse persone. Dica la sua. Comunque, risponde a quel Paolo lì che lui veramente ha le fantasie, perché io ho lavorato in albergo 5 anni, ero prima ai piani, poi sono andato alla reception e gli posso assicurare che intanto le cameriere in nessun albergo io credo del mondo siano vestite come lui le ha. Sì, l'abbiamo già detto, ma penso che sia un po' sognato forse. E questo era quello, sì. Comunque che qualche cliente gli possa venire, diciamo, la tentazione di provarci con delle cameriere, questo è anche vero, perché magari pensano che siano donne magari poco colte, perché sono magari perché fanno appunto le cameriere, ma questo succede, me ne sono accorto anche quando non so, con le donne di pulizia in genere, anche negli uffici, così questi uomini magari pensano di poterci è un atteggiamento trovare, molto odioso, perché si gioca sulla preponderanza del ruolo, si considera che si possono, questo è, però sa, fa parte delle fattispecie umane. Però nel particolare caso, lei mi conferma, di un hotel, la prima garanzia che l'hotel ci rimette a chiudere un occhio su queste cose, a meno che sia un hotel che in realtà è un casino mascherato, allora fa parte comunque della linea commerciale di quel tipo di esercizio, ma un altro discorso. Roberto, buongiorno. Sì, pronto? Ah, Roberto, sei, allora, Elena, Roberto lo saluto, Elena. Buongiorno, signor Gianluca. Senta, io volevo portare un po' la mia esperienza. Io faccio un lavoro, giro praticamente metà Italia e praticamente dal 2005, insomma, quindi mi trovo almeno 3-4 sere a settimana fuori in albergo, un po' di tutti i tipi. La tipica signora che la sera cena da sola nel ristorante d'albergo? Bravissimo, non solamente al ristorante, magari diciamo così, le sere che magari non sono impegnata con clienti o con colleghi, spesso mi faccio portare la cena in camera. Giusto, insomma, perché però cenare da solo in albergo a sua volta si è sottoposti a tutta un'altra serie di equivoci. Sì, ma poi anche triste, insomma. Lo so. Allora magari beh, oddio, anche la cenettina sul vassoio in stanza d'albergo non è che sia proprio il massimo. Comunque, vabbè, no, andiamo al vero, punto, però Elena. Funziona così, ho notato, questa è la mia esperienza, che quando si approccia una categoria alberghiera, diciamo così, non altissime, quindi non magari un 4 stelle piuttosto che un 2 o un 3 stelle, io insomma qualche approccio, ecco, l'ho avuto insomma con queste persone che magari volevano accompagnarti in stanza per farti vedere come si riusciva ad accedere alla stanza, come si apriva la stanza, piuttosto che per galanteria, diciamo così, ti portavano i bagagli. Molte volte lo fanno perché voglio la mancia, accade anche certo, a me, le dico che insisto nel venirti a portare una valigia che pesa mezzo chilo in camera perché con la scusa vogliono che gli lasci 5 euro in mano, ecco, forse quello. Però lei ha avuto. Sì, però lei ha avuto anche l'idea che ci fosse una sorta di desiderio di corteggiamento. Ma nel senso che magari quando si accede all'ascensore il bagaglio viene posizionato in modo che magari non mi riesco tanto a muovere, con la persona. Beh, molto. Ha mai avuto molestie? Ha mai avuto molestie? Diciamo che manate da qualche parte, più ora no, però diciamo che vabbè, sono comunque, una vede, persona signora, che sta a tenersi comunque. Lei mi conferma, e questo viva Dio, mi dà una grande leggerezza, che anche le donne hanno le loro fantasie, e lei accarezza una sua fantasia di essere corteggiata e vellicata da un cameriere d'albergo mentre le porta sulla valigia, e questo le fa onore e dà senso a questa bella giornata di primavera e quasi estate. Grazie a Alessandro Chiappini, a Fabrizio Intonti, ci sentiamo domani. Alors tous deux, on est partis dans tourbillon la vie. on a continué à tourner, tous les deux enlacés, tous les deux enlacés.